24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. I miei fratelli africani non scaricherebbero mai un loro fratello, però sì, quelli non sono suoi fratelli, perché lui è italiano, l'ha detto, Balotelli è italiano, è nato in Italia e gira su una potentissima Audi A8 che gli africani se la sognano, nemmeno ci arriva una A8, in forse qualche dittatore. Così Paolo Liguori, forse qualche dittatore in Africa la macchina che ha Mario Balotelli, vabbè, ma adesso mi sono stancato pure io, mo basta. Certo, c'è da dire che nella povertà di argomenti che propongono i giornali, la vicenda Balotelli, visto che ieri era entrata all'Italia, ancora Balotelli con le cuffie, isolato, testa bassa, rischia di essere ancora la notizia più interessante del giorno. D'altronde, di che vogliamo parlare? Vogliamo parlare della Commissione Europea, dell'Unione Europea, dibattito su metteranno Juncker alla Commissione? Brividi di emozione. Oppure chi metteranno come alto rappresentante della politica europea, il ministro degli esteri? La Mogherini? D'Alema? Enrico Letta, se sarà italiano? Brividi di passione per questo argomento. Va bene, si chiude oggi intanto che la 60ª settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché la 60ª settimana decisiva per l'abolizione delle province. È venerdì e questa è un'ottima notizia per me, per l'alpino Peter Bescapè, per Miriam Lucchetti. Saluto tutti alle 6:34 minuti. Allora apriamo il Parlamento, dai. Che qui il Parlamento è aperto anche il venerdì, eh? Il caffè volentieri a tutti quanti. Qui Nicole Minetti offre il caffè anche il venerdì, mica quelli del Parlamento. Noi al Parlamento siamo aperti anche il venerdì. E oggi abbiamo intanto Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Ben trovato. Ciao Alessandro, ciao a tutti. E poi, caro Maurizio, sai che oggi c'è un evento epocale. Wow. Epocale, esce il libro finalmente di Vincenzo Gallo, in arte Vincino, che saluto. Eccoci qua, un grande. Buongiorno. Il mio gemello. Il tuo gemello. Come ecco. Si intitola intanto questo libro, caro Vincino? Potom. La cavalcata. La cavalcata. Sì. E chi è? Il protagonista è lui. È lui. Il protagonista è lui, è quello là che batte i pugni alla Merkel là, perché noi abbiamo visto i streaming della sua chiacchierata con la Merkel, se parla terribile. Matteo Renzi. Assolutamente. Che gli ha detto la Merkel? La Merkel ha iniziato e poi è andata in tedesco duro, no? E lui ha risposto in fiorentino e praticamente non si sono capito. Juncker mai, Juncker sì, un po' di cose, ma come dire. L'ha spuntata chi? Chi la spunta? Tra il tedesco? Siamo ancora a metà. Questo mercato. Vabbè, ma adesso ma la copertina della cavalcata. No, infatti, te lo vedi. Pare che Renzi, secondo la stampa, caro Maurizio, gliele abbia cantate ieri la Merkel a cena. Ha detto: sapete quando l'ultima volta della presidenza italiana quali due paesi hanno chiesto di sforare il 3%? La Francia e la Germania, bravi! Fa la voce grossa, Matteo. Matteo il fenomeno, come lo chiama Silvio Berlusconi. Lui vuole essere il primo presidente europeo eletto dagli europei, lui tra 2, 3, 4 anni alle prime elezioni europee, quelle in cui si decide il coso, eccoci qua, no, sarà è avanti, avanti il ragazzo, va bene, è avanti. Quando non prenderà un'incocciata di quello, però eccola là l'incocciata, ma perché l'incocciata ora veleggia, ve le spiegate? No, assolutamente, con il 40 e rotti per cento prima dobbiamo voti. Esaurire la tiratura di questo libretto, esatto, finché il libro va, che Renzi rimanga in sella veleggiando sulla barca a vela del successo. Ecco, ti piace, Vincino? Assolutamente. Oh, allora, Maurizio Tortorella, ti appassiona questo discorso? Che ne pensi se ci vediamo Enrico Letta, D'Alema? C'è la sensazione, così è, senza volere, la sensazione, quella che provavo stamattina, di dire una poltrona vale per sempre, cioè c'è sempre una poltrona, o no, Maurizio? Ci siamo per anni arrovellati sui governi democristiani dove facevano il ballo della sedia, quel gioco che tutti si alzano, poi tutti si siedono quando la musica si interrompe, ma mi pare che non sia cambiato molto da allora. Devo dire che mi appassiona di più il tema della franzoni domiciliari. Ecco, infatti, ma parliamo di questa cosa. La franzoni ai domiciliari, il quotidiano nazionale oggi titola così: questa donna è cambiata, ma intanto Maurizio non dobbiamo decidere né io né te né Vincino. No, anche perché l'hanno già deciso, quindi Vabbè, no, però, io da cronista di giudiziaria, avendo seguito a suo tempo la vicenda, sono un po' perplesso, perché perplesso più che sui magistrati, sui tribunali di sorveglianza, che vorrei. Sui tribunali, moltissimo. Cioè, perplesso su cosa? Su come fanno le perizie? Le perizie, perché la perizia psichiatrica, quella che stabilisce che lei non è più pericolosa, cosa dice? Che lei, tutto sommato, con i suoi figli è stata per 6 anni, e quindi quei figli nuovi, figli sopravvissuti, e quindi ha dimostrato di non essere pericolosa, ma questo avveniva 6 anni fa, cioè 12 anni fa, certo. E allora perché adesso va? No, ma lì ognuno poi può avere il giudizio che vuole. C'è da dire che stamattina, quando sono entrato, l'usciere qua al Sole 24 ore mi ha avvicinato e mi fa: senta, vorrei sapere un parere da lei, mi dica, ma secondo lei la Franzoni a casa è una cosa giusta? E gli ho detto, erano le 5:30, ero anche molto rincoglionito, gli ho detto, guardi, non lo so, penso di sì, ma non lo so, è il sistema giudiziario italiano, quello che ti fa pensare è che dici, questa scontato 6 anni per la morte allucinante di un bambino, lei si è continuata a proclamare innocente, ma un condannato su due si proclama innocente, forse anche di più, e quindi non lo sapremo mai se effettivamente è stata lei. Ma uno fa il confronto fra i 6 anni che lei ha scontato e i 12, 13, 14, 15 anni che in teoria dovrebbe scontare, che ne so, un corona. Sì. E allora tu dici, ma che cazzo di giustizia non lo so, Vincino aggiungo un ragionamento: il tribunale dei minori di Bologna ha stabilito che lei conserva la capacità genitoriale, come la chiamano loro, i magistrati, però poi la sottraggono a quelli che sono che non hanno i mezzi economici per sostenere i figli, e allora ma vi sembrano tutte cose logiche? Giustizia, giustizia. Vincino, che è uno che sulla giustizia adesso massacra. Assolutamente. No, ma poi aggiungiamo di più, che al povero Robledo non gli fanno partecipare agli interrogatori perché c'è quell'altro là quello vuole partecipare agli interrogatori, è la sua parte, insomma, è il capo della parte corruzione, e così non conta niente, non è in grado di capire niente. Come fa il procuratore se non lo fanno andare proprio per punizione, proprio perché non è della corrente giusta? Assolutamente, ha sbagliato tutto, Vincino è così, che è innocente adesso tutti innocenti, adesso non lo so, ma io credo metà sono innocenti, metà sono innocenti, metà in carcere sono innocenti. Metà, cioè quelli che dicono di essere innocenti, tra l'altro. Perché sarebbe una coincidenza clamorosa, sarebbe semplice, no? No, è così obiettivamente, perché se pensi che il 47% sono lì in attesa di giudizio, quindi è garantito che per metà alla fine saranno assolti, perché la statistica è quella. E poi aggiungici 10% di condannati innocenti per errore, perché gli errori giudiziari in questo paese ci sono. Comunque, diciamo che io non ho un parere compiuto, non lo so, non me lo sono ancora formato. Leggerò sulla Franzoni. Sulla giustizia d'Italia, Vincino ce l'ha però compiutissimo. Ora ce lo comunica. Vincino, qual è il tuo parere? Dall'epoca di De André e delle sue canzoni contro i magistrati del 70, insomma, non è che assolutamente il parere è identico, nessuna fiducia sulla giustizia in Italia, totalmente. Zero. Zero. Non vogliamo ricordare qui il momento in cui Vincino è andato in carcere. Questa cosa ti ha segnato, secondo me. No, ma poi ho conosciuto pure il carcere da militare, Ma come da militare? Perché? Io due volte in carcere. Due volte? Sei recidivo? Due giorni prima di finire il mio servizio militare partecipo a un comizio che non dovevo farlo. Ma eri un militare? Ma ero anche un proletario in divisa. Ho capito, ma eri militare! Che ti hanno fatto? Arrivo in caserma e fa la guardia, quella lontana, e fa: mamma mia, Vincere! C'erano tutti svegli là, mi prendono e mi mettono nella cella della caserma. E sto una settimana, 10 giorni là, mentre tutti erano già andati via, tutti a casa. E io, come un cretino, dicevo: ma perché ancora? Perché hai fatto il comizio? No, ma perché là quello che doveva dire non è venuto, allora ho detto: dai, Vincino, vai tu, Va bene. Insomma, la seconda notizia che interessa, dai, ancora il calcio. Perché oggi, Vincino, hai disegnato Suarez hai disegnato sul foglio. Suarez è un po' là, quello è un po' un delinquente, di quelli proprio abituali totalmente, che sono pochi, quando 9 giornali, 10 giornali, lui è un po' più tipo un piragna. Sì, l'hai disegnato come un piragna. Dopo la partita lo ributtano nel rito della palata. Guarda che ieri c'era qui il tuo direttore Giuliano Ferrara, alle 8:15, ha detto: Suarez, insomma, è un giocatore incisivo. È un giocatore valido, anzi, ha scritto 2 giorni fa l'editoriale: manca a noi italiani quell'essere un po', come dire, figli di puttana che Suarez ha dimostrato in maniera, no? E invece noi abbiamo le polemiche su Balotelli. E su Cassano, poveretto, là, che quasi lo stavo prendendo a schiaffi in aereo. Cassano doveva lasciarlo a casa. Insomma, Maurizio, tu su Balotelli ti sei fatto un'idea? No, io però, sai, che io purtroppo per te, per me, per tutti, il calcio non lo seguo molto. La cosa che mi stupisce, però, da giornalista, perché da non tifoso, è che dopo la vittoria con l'Inghilterra, se non ricordo male, i giornali parlavano di un'Italia stratosferica. Siamo sempre così. Intelligentissima e proprio particolarmente super. Sì. E adesso è tutto tutto il guano, non si può usare una cosa intermedia. Sì, ma è così, ma il calcio suscita passioni estreme, non è che possiamo, sappiamo. Comunque, Vincino, prima del traffico, è il tuo momento. Allora, io sono qua già su Twitter, Vincino a 24 mattino, hai qualcosa da dire sul Movimento 5 Stelle e sull'incontro avuto con Renzi? Che così lo twittiamo subito e ti facciamo passare un bel weekend. Assolutamente, allora, lo sconfitto totale è Grillo proprio un disastro in quel coso là, no? Proprio, anche se non c'era lui è stato lo sconfitto, infatti ieri si stavano picchiando alla sede di Firenze, no? Che hanno dovuto chiamare 5 camionette della polizia per dividerli. Sì. Perché, quindi un disastro Grillo. Grillo è un disastro. Beh, oggi sei un po' morbido. Grandissimo, tranquillo. Sei un po' morbido oggi però, un tweet così è troppo morbido, lo sconfitto totale è Grillo. È un disastro, che dobbiamo fare? Inventatela tu, fai il con parole tue anche. Io sto mettendo Vincino a 24 mattino, lo sconfitto totale è Grillo, un disastro. Non sa più che fare proprio. Ma lui si deve convivere, perché se lui non ne può più, proprio sesso di questi qua, di queste banda di ragazzini deficienti che si è messa attorno, no, ma se se ne va e crolla tutto, se non se ne va se ne deve ancora, è una cosa proprio, è dilaniante, io proprio lo capisco da questo punto di vista qua, lui vorrebbe stare sempre ai concerti, alle cose, non ne può più, fa tutte queste finte, le traversate, quella manna. Vabbè, allora aspetta, aspetta, vediamo se il testuale, la vincina 24 mattino, lo sconfitto totale è Grillo, un disastro, ma lui non ne può più, aspetta, non ne può più di questi deficienti ragazzini che ha intorno. Con 178 voti se le trovo, cioè, come dire, il grande coso che di Maio 170 quando hanno l'hanno vabbè, aspetta, lo twitto così, sì, va bene? Twitta così va benissimo. Oh, ok, è abbastanza fedele. Voti. È abbastanza fedele, fedele alla vabbè, è abbastanza fedele. Che facciamo? Mandiamo la segreteria telefonica intanto. Sì. Abbiamo dei problemi col traffico, non ci rispondono. Vabbè. Allora mandiamo la segreteria telefonica, Ciao Milan, dunque, riguardo alla partita con l'Uruguay, fammi capire. In campo c'era l'arbitro che era detto Dracula, Suarez che era detto Hannibal Lecter, mancava solo la saponificatrice di Correggio e avevamo fatto CSI Nadal. La tassazione degli utili dal 20 al 26%, che dicono partirà dal 1° di luglio, è una delle tante bugie del bavoso di Renzi. La tassa è retroattiva, le banche stanno già rettificando gli utili a partire dal 1° gennaio del 2014. C'è quel genere di crimine del sindaco di Napoli che ha asserito che hanno sparato un ragazzo su Marte? Capra! In Italia invece di parlare di calcio, no? Dove tutti scoprono CT, dovrebbero lavorare di più. Lavorate di più invece di chiacchierare di calcio, lavorare, lavorare. Per Milan certe volte è un gran tormento, se l'ospite e non c'è all'appuntamento, frenetici momenti in redazione. Per subito trovar la soluzione, ma per fortuna presto di mattina c'è Paola Saluzzi assai carina. Ciao ne da Felice Pautasso. E allora grazie a Felice Pautasso, allora abbiamo recuperato il traffico 24 mattino. E allora, alle 6.49 minuti, siamo con Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, e con Vincino. Oggi sapete chi intervista il giornale? E effettivamente anch'io avevo questa curiosità. Non è un'intervista, perché dice interviste non ne faccio, però ci sarà tempo. Ma la ricordate Rosi Mauro? Assolta Rosi Mauro, quella che era considerata, no, la Dark Lady, la strega nera della Lega, poi lei che era meridionale, quindi quelli le fecero pagare anche questo all'interno della Lega, no? È stata scagionata dalle accuse di avere preso soldi pubblici, 96.000 euro, sì. Non, invece era Boss, vicepresidente del Senato, era vicepresidente del Senato. Memorabile, laureata, una sua... laureata. Che c'entra? Importante. Non... Lei è laureata, certo. Memorabile una sua seduta. Memorabile una sua seduta nel Senato. Peccato, cioè, mi viene in mente, riproponevamo l'audio. Vi ricordate una memorabile seduta del Senato in cui in 3 minuti faceva approvare. Approvato. E faceva approvare, tra l'altro, cose per le quali c'era il voto, cioè, per le quali il governo era contrario e lei le faceva approvare nella concitazione, nella foga. Vabbè. Ha dimostrato più lei l'inutilità del Senato che proprio tantissima. Proprio. Quei 3 minuti si è capito proprio che non serve. Eccolo lì. Lo possiamo fare presiedere dalla chiunque, tanto non serve a niente. Insomma. Eccolo lì. Eccolo comunque, Vincino, vogliamo ricordare un po' di più il tuo libro? Perché qua dobbiamo fare proprio una promozione di quelle come si deve. Intanto, l'editore qual è? Sai, per educazione. Per provocazione, si dice. Caio Editore, che è praticamente è l'unico che nelle edicole c'ha un sacco di giornali, è l'unico editore che non è bancario, che non è... A Cairo è sempre quel Cairo, quello del presidente del Torino. È sempre quel Cairo. Quindi l'ha incontrato? No, ho incontrato Ferrauto, il numero due. Suo braccio destro, diciamo. Ho uno e mezzo, insomma. No, ma un po' di rispetto, insomma, di rispetto. Ma io li amo moltissimo, assolutamente. Non è che dopo che l'ho incontrato, mezz'ora dopo eravamo già a fare i piani. Che libro è? Cioè, cosa fai? Tu hai vignette? È un Istanbul. Praticamente io ho scoperto a un certo punto, i primi di giugno, mi accorgo che ogni giorno, da dicembre sino a quel giorno là, che era il 2-3 giugno, ogni giorno ho fatto un disegno su Renzi. E praticamente mettendoli insieme c'è proprio tutta da che era niente a che prima diventava la cavalcata giorno con tutto ogni giorno segnato e come dire eccoci qua la cavalcata era già fatto già. Allora ma è chiaro c'è chi mi scrive auguro a Giuliano Ferrara di essere morsicato perché vabbè c'è qualcuno e c'è anche qualcuno che mi scrive caro buongiorno Milan, domani a Milano si esibiranno i One Day Direction e un bacio a mia figlia. Da loro fan che sarà a San Siro. Vabbè, cara Giuseppina da Modena, che dobbiamo dire? Va bene, insomma, siamo contenti per i One Direction. Tu li conosci, Maurizio, dottore? Andrai mai a un concerto di One Direction? Forse devo chiedere a mio figlio. Va bene, sai, sono di questi, no? Sai, One Direction, sono questi gruppi. Le bands giovanili. Non dire mai niente contro i One Direction su Twitter. No, pericolosissimo. Non scrivere mai nulla contro Justin Bieber o contro i One Direction su internet. Justin Bieber, mio figlio lo detesta. Ma perché è bello? Perché è bello ed è invidioso, secondo me. Che non mi senta mentre dorme a quest'ora, sicuramente. Devo per caso twittare, Maurizio Tortorella dice: mio figlio detesta Justin. No, perché guarda che succede un putiferio qui, Vabbè. Vabbè, argomento a piacere per concludere. Cosa vuoi dire, Maurizio? Cosa ti ha colpito ancora delle notizie che troveremo sui giornali? Ma parlando di Rosi Mauro, io trovo abbastanza vergognoso il fatto che lei appunto sia stata all'epoca devastata insieme a tutta la famiglia Bossi per le accuse e tutto sommato adesso nessuno dica però povera donna, un minimo di risarcimento, la Lega che l'ha maltrattata, l'ha cacciata e fatta decadere, fatta uscire cacciata dal partito. E invece Bossi invece è un po' strano, no? Se vogliamo. No, certo sì. Invece Vincino Bossi. E lui là con tutti quei figli là è un disastro. Ma no, avere due figli, uno con la passione dell'automobile, ma un altro con la passione dei gelatini, no? Che è una cosa. Richiesto i problemi, le sue cose, no. Però ritorniamo al punto della trasmissione, a Robledo che non può interrogare. Robledo. Se io fossi beccato a Milano, Andrea dice vorrei essere entrato a Robledo, assolutamente. Questa cosa di Robledo nessuno l'ha capita, nessuno la segue, nessuno le beghe all'interno della Procura di Milano. Il messaggero apre su questo. Robledo non può interrogare, Brutti Liberati lo brutalizza proprio, lo mortica, il titolo del Messaggero, flessibilità, battaglia dell'Unione Europea, sei un bugiardo, Vincino bugiardo, ti mandiamo in carcere per la terza volta, no per carità, ricomprate tutti il libro di Vincino, La Cavalcata, e ringrazio sia lui che Maurizio Tortorella, alla prossima. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:17 e l'alba è già passata, cari debosciati, e dunque dovete, amici miei, debosciati d'Italia, darvi da fare, perché si sta per concludere anche la 60ª settimana decisiva per la riforma elettorale e per l'abolizione delle province. E dunque bisogna darsi una mossa.

Per lei invece è stata scagionata da tutto, di non aver preso soldi pubblici. E ricordate la gogna mediatica che ci fu all'epoca, lo sfogo di Rosi Mauro sul giornale, scagionata dopo 2 anni, la gogna non si cancella. L'ex senatrice leghista non augura al mio peggior nemico ciò che ho passato e ringrazio i PM per il loro lavoro immane. Luca Fazzo racconta di quella che era definita la strega nera, donna e meridionale dentro una lega di maschi. Non auguro davvero al mio peggior nemico ciò che ho passato in questi anni. Oggi sono felice, ma 2 anni e 2 mesi di gogna non si cancellano. Non si cancellano le incursioni, le falsità sulla mia vita privata. Ringrazio i PM che hanno fatto un lavoro immane e questo lavoro li ha portati a convincersi della mia innocenza. Un'innocenza però calpestata senza ritegno su giornali, in televisione, su internet. Oggi Rosi Mauro dice: sono felice, con quel mondo non ho più niente a che fare. E siamo al momento conclusivo, dai, è il momento della carta costa. Ripeto, è arrivata la coppa. Oggi metterò una foto su internet, magari un po' misteriosa, e la consegneremo settimana prossima al vincitore della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, il vincitore dell'anno. E se guardate su internet e su Twitter c'è già una traccia, un accenno di chi sta primeggiando in classifica e potrebbe vincerla questa coppa. Intanto oggi il premio di giornata va a Giuseppe Guastella, che va a New York per raccontare come arriverà una spiaggia a Manhattan. C'è un miliardario, tale Blaine Ross, che vuole fare una chiatta con tanta sabbia sull'Hudson tra i grattacieli per fare una spiaggia a New York. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Una pagina del Corriere della Sera. Dai, andiamo al giornale radio. 24 mattino. Allora, sono le 8:17, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Di che parliamo? Beh, parliamo di questo difficile, laborioso parto per la riforma del Senato. Torniamo sulle tensioni politiche. Spuntano ora i dissidenti, sia nel Partito Democratico, sia in Forza Italia. Quanti sono i senatori pronti a mettersi di traverso per impedire la riforma? Una riforma che, lo ricordiamo, ridisegna il Senato a 100 membri, 100 uomini e donne, che però non saranno eletti direttamente da noi cittadini, saranno scelti soprattutto tra consiglieri regionali, tra i sindaci. Qui tra l'altro si inserisce il dibattito su cui molti italiani sono arrabbiati, quando hanno scoperto che ci sarà l'immunità per i nuovi senatori, un po' come l'immunità, nel senso, la situazione come avviene anche adesso alla Camera, non la vecchia immunità pre-Tangentopoli, ma di fatto l'autorizzazione, la richiesta per esempio per arrestare un nuovo membro del Senato, ci vorrà la richiesta, l'autorizzazione da dare dallo stesso Senato, come adesso. Solo che se noi mettiamo lì dei consiglieri regionali e dei sindaci, molti italiani si chiedono: e come? Per esempio, ci sono molti consiglieri regionali che sono indagati, alcuni, due per esempio l'altro ieri, sono state arrestate alla regione Liguria, sono state messe agli arresti domiciliari. Fossero state al Senato elette senatrici, che succede? Non potevano più essere arrestate, bisognava avere l'autorizzazione della Camera di appartenenza, in questo caso il Senato. Insomma, su questa cosa dell'immunità gli italiani vogliono vederci un pochino più chiaro. Se volete intervenire, 800 24 00 24, cari ascoltatori. Ieri il Fatto Quotidiano faceva un calcolo di questo tipo: su 1100 consiglieri regionali, 521 sono sotto inchiesta. Per 300 di loro è stato chiesto il giudizio per le spese pazze. Allora, questa immunità è uno scudo possibile, futuribile per costoro. Intanto lo voglio chiedere ad Antonella Mascali, che saluto, giornalista del Fatto Quotidiano. Buongiorno Antonella e benvenuta. Buongiorno qua. A te e agli ascoltatori. Tra l'altro autrice anche di un libro che è uscito da poco, lo voglio ricordare, edito da Chiare Lettere, si intitola Vi aspettavo. Allora Antonella, voi ponete insomma questo dubbio. Sì, direi che è un dubbio che non è sorto solo a noi ma a tanti cittadini, cioè che questa riforma del Senato, poi come dire, discutibile o meno, ognuno ha le proprie idee, al di là di questo pone un problema proprio rispetto all'immunità e rispetto a un fatto inequivocabile ed oggettivo, cioè che moltissimi consiglieri regionali o ex consiglieri regionali sono indagati o addirittura già imputati, cioè sotto processo almeno con una richiesta di rinvio a giudizio, per le cosiddette spese pazze, che poi in termini di reato si traduce in peculato, sì, certo, o truffa. Ora, molti, però sono molti, le spese facili, cioè dalle patatine, che è una cosa veramente imbarazzante, ai taxi per uso personale, ai ricevimenti per i figli che si sposano. No, cioè, questo certamente. C'è da dire però che molti, sai, accusano anche il Fatto Quotidiano di dire: ma come, voi siete giustizialisti? Molti degli indagati sono persone che poi, per i quali magari non verrà richiesto il rinvio a giudizio, magari verrà archiviato tutto, non lo so. Ma ben venga, questa storia del giustizialismo francamente trita e ritrita, no? E non mi appartiene, non è una questione di giustizialismo, è una questione che uno fa il cronista e va a vedere, fa un conto, dice più o meno a ribasso ci sono oltre 521 consiglieri indagati adesso con scontrini francamente imbarazzanti, al di là poi, cioè, ognuno si augura che poi un consigliere regionale, visto che poi viene pagato con i soldi nostri, cioè di ciascuno contribuente italiano, poi in realtà non abbia commesso questo reato francamente fastidioso rispetto a una crisi anche economica che ha piegato il paese, no? Che c'è? No, ma è chiaro, però è un fatto oggettivo, cioè, voi titolavate ieri carta canta, è chiaro, voi titolavate ieri immunità nel nuovo Senato anche i papabili nuovi senatori come Fiorito, come Nicole Minetti, insomma quei nomi che vanno per la maggiore quando si parla anche nell'immaginario collettivo di queste vicende. Antonella, fammi salutare il professor Michele Ainis. Buongiorno professor Ainis, eccoci qua. Lei insegna diritto pubblico all'Università Roma 3, è un costituzionalista. Allora, questa immunità, intanto, secondo lei, Ainis, gli italiani l'hanno capita, la digeriranno in nome di una riforma per cui si dice siamo all'ultimo miglio? Ma che la digeriscono ho molti dubbi. In questo momento c'è un clima diciamo negativo rispetto a qualunque posizione speciale, particolare, che riguarda chi ci rappresenta, che sia l'immunità o che sia l'indennità parlamentare. Circola, mettiamola così, una concezione molto radicale del principio di eguaglianza, e il principio di eguaglianza effettivamente verrebbe diciamo contraddetto da un trattamento normativo particolare. Però si dice l'uguaglianza dovrebbe essere, siccome l'uguaglianza, ieri ce l'ha detto l'altro ieri per la verità Calderoli, qui nostro ospite, siccome alla Camera c'è, diciamo, la richiesta d'autorizzazione a procedere in caso d'arresto, si creerebbe una disuguaglianza se non venisse posta al Senato. Infatti l'antico problema dell'eguaglianza è stabilire chi siano gli eguali, il rappresentante è uguale al rappresentato, il senatore è uguale al deputato. Allora io la metterei così, è un istituto antico, se ne è parlato mi pare in questa settimana in lungo e in largo, brevettato dai Giacobini nel 1790, e ha delle ragioni. Queste ragioni quali sono? Sostanzialmente la separazione tra i poteri, così come il Parlamento non può demolire una sentenza, non può rovesciarla. Quando Berlusconi ci provò per il caso di Eruana a fare un decreto legge che neutralizzasse quel provvedimento giudiziario, Napolitano non firmò il decreto proprio per queste ragioni. Però allo stesso modo ci sono dei limiti all'intervento del potere giudiziario sul potere legislativo. Questi limiti, cioè, qui entra in gioco un principio di cui si è fatto strame, cioè c'è stato abuso, tutti gli scandali ultimi riguardano le regioni, ma sì, in passato, insomma, il Parlamento ha fatto abuso di questo istituto. Però il principio è quello che dicevamo e si lega alla funzione, non alla elezione. Cioè anche un Senato non eletto, siccome svolge delle funzioni legislative che vengono poi anche rafforzate con gli emendamenti Calderoli-Finocchiaro, ne dovrebbe avere diritto. Faccio un solo esempio: ne hanno diritto i giudici costituzionali. E questo non è stato mai ricordato, mi pare, in questi giorni, ma i giudici costituzionali hanno addirittura le vecchie immunità, quelle precedenti alla riforma che lei poco fa ricordava del 93 di dopo Tangentopoli. Quindi hanno una. Hanno un'immunità totale, vecchia maniera. Vecchia perché maniera. È la funzione che viene così. Ecco, ma non si potrebbe appunto legare un'immunità alla funzione, cioè a dire se un consigliere regionale diventa senatore nel futuribile e futuro Senato, se commette un reato nell'esercizio di funzione del Senato gli si chiede l'autorizzazione, ma se commette un reato come consigliere regionale è arrestabile se il reato prevede l'arresto. Ci fosse un'intenzione. Se uno da consigliere regionale, che ne so, ruba 100.000 euro con gli scontrini, è abbastanza chiaro che lo fa per quello. No? Diciamo che il paletto, perché le immunità sono due binari: il primo binario è la insindacabilità. Per le opinioni e per i voti che io do in Parlamento, non posso essere perseguito, ma neanche in sede civile. E questo, certo. Questa immunità di cui votano i consiglieri regionali, attenzione, quindi noi avremmo il paradosso, privando il Senato prossimo della insindacabilità dei senatori, che questi, ci sarebbe il contrario, no? Questi consiglieri regionali, quando fanno i consiglieri regionali, sono insindacabili, quando lo stesso discorso lo ripetono come senatori diventano sindacabili e perseguibili, no? Però ecco, tutto questo è legato all'esercizio delle funzioni, lo dice chiaramente l'articolo 68. Il vero problema per quanto riguarda le autorizzazioni agli arresti o alle perquisizioni è che non c'è un nesso nell'attuale versione dell'articolo 68 con la specifica funzione parlamentare esercitata. Si potrebbe fare, anche se poi non è di facilissima applicazione. Si potrebbe fare, ma non è di facilissima applicazione. Antonella Mascali, però molti sindaci, molti consiglieri regionali dicono l'immunità, questa immunità non la vogliamo, ma verrà cancellata? C'è anche tutto il mistero. Due giorni fa Calderoli appunto ci ha detto, come ha detto a Finocchiaro, il governo sapeva. Oggi voi del Fatto Quotidiano pubblicate gli emendamenti, no, in cui si evince che il governo davvero sapeva. Ma insomma adesso non la vuole nessuno più questa immunità. Ah no, perché la tecnica è questa, come diciamo, quando ci sono in gioco questo tipo di cose, tu butti lì la cosa, la fai filtrare, la fai rendere pubblica secondo indiscrezioni, secondo un fatto che non è certo, ma forse, come dici tu, futuribile, chi lo sa, ma per vedere la reazione, per capire l'aria che tira. L'aria che tira, francamente, nel paese è di arrabbiatura, no? Anche il professor Ainis riconosce che gli italiani non gradirebbero affatto, anche perché, come hai ricordato tu, questo sarebbe un Senato di non eletti. Già abbiamo comunque un Parlamento attualmente molto, molto di nominati, visto che non abbiamo più le preferenze e i candidati sono decisi dalle segreterie di tutti i partiti, naturalmente. In più avremo un Senato di non eletti. Quindi, e questo fa arrabbiare, no, però almeno di 100, tu, almeno di 100 tu, senatori, alla... cioè l'aspetto, sì. L'aspetto, come dire, si rischia per una questione importante di far passare in secondo piano il fatto, per esempio, che avremo 100 senatori. Questo almeno nel nuovo Senato è una cosa positiva, Antonella, no? Ah, certo, la riduzione dei parlamentari è assolutamente positiva, però non è sufficiente dal mio punto di vista. Riduzione sì, perché ci vuole una riduzione dei costi, una riduzione anche per avere, come dire, una funzionalità migliore, più efficace, un'efficienza del Parlamento che esca. scarseggia, però poi bisogna vedere anche come funziona questo Senato, in che termini, eccetera, eccetera. L'hai detto tu, se si può fare una immunità rispetto all'insindacabilità delle opinioni espresse come senatori, come dice l'articolo 68, ci mancherebbe altro, perché sennò c'è il paradosso, appunto, insindacabile da consigliere, sindacabile da senatore, ma per il resto no, non sono neanche eletti, cioè non è molto difficile, no, in realtà. Anche perché tra l'altro si creerebbe, professor Ainis, una situazione in cui un sindaco che viene mandato anche al Senato è più protetto rispetto a un sindaco che non è senatore e quindi è passibile di arresto da un giorno all'altro se commette qualcosa. Pensiamo, per esempio, facciamo un esempio, il sindaco di Venezia, che è stato arrestato, poi ha patteggiato, eccetera, fosse stato senatore, sarebbe stato arrestabile con lo stesso modo, professor Ainis? No, sarebbe stata necessaria l'autorizzazione. Ma questo anche se gli atti contestati a lui erano in quanto sindaco? Direi di sì, però siamo sempre lì a questo, diciamo, malinteso interpretazione del principio di eguaglianza. Dice, ma perché i due sindaci devono avere un trattamento diverso? È perché uno è senatore e l'altro no. Ah, ecco, torniamo alla questione solita. Tra l'altro c'è, come detto, la fronda dei dissidenti. Oggi Repubblica calcola quanti sono favorevoli al Senato elettivo. Vabbè, i senatori del Movimento 5 Stelle, ma anche molti del PD, molti di Forza Italia. Si arriva fino a 134 senatori che potrebbero mettersi di traverso a questa riforma. All'interno di Forza Italia si batte molto Augusto Minzolini, sentitelo. Queste riforme le consideravo, diciamo, poco convincenti prima e le considero poco convincenti adesso. Cioè, se ad esempio non ci sarà il Senato eletto, io non lo voto. Ecco, non lo voto, per esempio, cioè, e poi le preferenze, eccetera. Però il Senato eletto non lo voto. Antonella Mascali, è quanto c'è del tacchino, come si suol dire, che non vuol festeggiare il proprio Natale, cioè il timore di perdere il posto, o quanto invece c'è di battaglia in molti senatori per un diritto anche di pensare che il Senato debba essere eletto? Non lo so, vogliamo dargli il beneficio del dubbio. No, non lo so, vabbè, però tutti pensiamo che il Senato debba essere eletto, adesso se lo dice un senatore, sì, pensiamo no, che è perché che vuole mantenere, no, il posto. Lasciamo il beneficio del dubbio, ma siamo buoni. siamo buoni. Ma passerà politicamente, professor Ainis, passerà questa riforma secondo lei? Perché se ne parla, si invia, poi ora i dissidenti, qua più che da costituzionalista, anche da analista della politica, le chiedo questa domanda. Però è una domanda da $1 milione, diciamo, in base a tutta l'esperienza che ci siamo purtroppo fatti nei 30 anni precedenti, bisognerebbe essere pessimisti, perché sono saltate per aria una dopo l'altro le riforme. Quelle che non sono saltate per aria, e cioè la riforma del titolo quinto nel 2001, sarebbe stato invece meglio farla. Io mi ricordo che all'epoca votai no al referendum comunque. Ora però che cosa c'è? C'è, diciamo, una forte energia politica e una forte legittimazione del Presidente del Consiglio e anche, direi, una forte preoccupazione per i parlamentari in carica, perché se si rompe il giocattolo si arriva a votare e chissà quanti di loro verranno ricandidati. Allora questi tre elementi possono spingere per un oroscopo meno negativo. Meno negativo. Ricordiamo infatti che Matteo Renzi, secondo la vulgata politica, avrebbe già in mente il piano B, cioè non facciamo la riforma del Senato e io, sapete che c'è, l'anno io, non è che decide lui, però voglio dire, faccio in modo, crisi di governo, eccetera, e si andrà a votare alla prossima primavera. Staremo a vedere. Io intanto ringrazio il professor Michele Ainis e ringrazio Antonella Mascali del Fatto Quotidiano. Dopo la pubblicità, se volete le vostre telefonate 800 24 00 24 su questo tema, che ci avete capito e che pensate di questa storia della riforma del Senato, ci sarà o non ci sarà, vi piace l'immunità, non vi piace l'immunità, pensate che sia uno schifo colossale. 24 mattino. Allora, alle 8:40 minuti, è il momento vostro, cari ascoltatori, parliamo dell'immunità, parliamo del Senato, del nuovo Senato. Ce la farà questa maggioranza capeggiata dal premier Matteo Renzi di fronte ai dissidenti? E poi che ne pensate di queste riforme annunciate, come ha detto il professor Ainis, da anni, e poi non arriva mai nulla. Franco da Torino, buongiorno. Buongiorno. Che dice lei? Io, come ho detto alla sua collaboratrice, sono favorevole a questo tipo di riforma e sono favorevole all'immunità, nei sensi, come l'ha detto il professor Ainis, io non saprei argomentare meglio. Mi sembra che la questione sia, come sempre, agitata in Italia, e non dico a caso agitata, sì, perché si fa dell'agitazione e non si discute sopra. Però, mi scusi, è a favore, ma cioè, però si capisce che c'è una, si crea con il nuovo Senato, se ci sarà, in cui faranno parte sindaci, consiglieri regionali, una situazione un po' paradossale, per cui un sindaco che non ha l'immunità in quanto sindaco per un reato potrebbe acquistarla perché diventa senatore. È un po' un'anomalia, o no? No, falso, no. Problema. Falso problema. Il sindaco che fa il sindaco risponde alle leggi del sindaco. Il sindaco che fa il parlamentare, in questo caso il senatore, risponde quando fa il sindaco a quelle leggi, quando fa il parlamentare all'altro. Ma guardi, poi però, io parlo di... No, però mi scusi, a domanda precisa al professor Ainis dicendo: fosse successo che il sindaco di Venezia, che era stato arrestato di recente, era anche senatore nel frattempo, dice non poteva più essere arrestato, anche se il reato era come sindaco di Venezia, perché da senatore acquistava un'immunità. Questa è la questione. Ma infatti io penso a un'immunità funzionale. L'immunità funzionale è molto semplice, molto, ovviamente il professor Ainis ne sa 100.000 volte più di me, però secondo me è molto semplice. Bisogna proteggere ciò che il legislatore 50 perfetto. Anni fa pose. Perfetto, quindi lei dice un'immunità per ciò che uno fa nelle proprie funzioni, ma se compie qualche ipotesi di reato per la quale è previsto l'arresto come sindaco, anche se è senatore, sia arrestabile. Questo la traduco così. Pasquale da Catanzaro, la ringrazio Franco. Pasquale da Catanzaro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta, allora, niente, io volevo fare giusto una velocissima premessa dicendo che io sono calabrese. Il mio presidente, sì, della regione, condannato per 6 anni per le beghe che ha fatto da sindaco. Sì, si è dimesso, credo anche. Sì, si è dimesso, poi ha pensato bene di candidarsi alle europee ed è ancora oggi commissario alla sanità. Ma questo non basta, perché i nostri consiglieri regionali sono stati indagati 2010, 2011, 2012, sì, e con indagini in corso hanno pensato bene gli stessi di fare cavolate anche nel 2020. Vabbè, diciamo, questa è una questione, se vuole, un pochino diversa. E sul Senato invece? Cioè, è diversa, è collegata al discorso. Io dico, noi parliamo di privilegi che vogliamo togliere a questi senatori. Io glielo darei un privilegio, perché giusto se lo meritano. Il privilegio che tutte le indagini e tutto quello che la magistratura fa su corpi dello Stato si è accelerato. Cioè, entro un mese, 3 mesi, noi dobbiamo sapere se questi signori indagati sono colpevoli o no. Diamo questo privilegio che se lo meritano. Perché c'è fare una giustizia accelerata, lei vuole, ma secondo me ci vorrebbe banalmente l'equilibrio, una giustizia veloce per tutti. Capisco che ho detto una grande cazzata in Italia e mi scuso di questo, però ho un'utopia, ecco, se vuole essere un po' più sfumato. Però la ringrazio, Pasquale da Catanzaro. Vorrei andare a Ravenna da Domenica, buongiorno. Buongiorno. Io ho pochissimo tempo perché sto già lavorando. Io sono incazzata nera, ma incazzata, perché quando è il momento di pensare ai problemi reali dei cittadini, questa gente pensa solo a delle cavolate e continuare a rubare. Ma di quale immunità vogliamo parlare? Se la legge è uguale per tutti qui, signori miei, direi che basta. Beh, lei la toglierebbe anche alla Camera, allora, perché già... Sì, a tutti. Se siamo tutti uguali davanti alla legge, certo che la toglierei a tutti. E li metterei a tutti queste persone che hanno questi stipendi milionari, sì, a 2.000 euro al mese, perché euro. Secondo me una persona che ha un lavoro di responsabilità e quant'altro, quando gli hai dato uno stipendio massimo di 10.000 euro, può vivere e stravivere bene. Beh, sì, questi non si accontentano mai di niente. Direi proprio di sì. Domenica, la ringrazio. Allora, guarda che siccome lei ha parlato di stipendi, mi fa un assist al bacio, come si direbbe in gergo calcistico, per salutare l'ospite con cui concluderemo questa puntata di 24 24 Mattino. Si tratta di un deputato che è un deputato particolare, perché è il deputato questore, cioè colui che tiene anche i conti dell'Assemblea regionale siciliana, al Parlamento siciliano. Si tratta dell'onorevole Paolo Ruggirello, che saluto. Buongiorno e benvenuto, onorevole. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Deve avere un attimo di pazienza, ci sono le informazioni sul traffico. Tra un minuto sono da lei, perché torniamo sulla questione dei costi dell'Assemblea regionale siciliana. È stato stabilito, sono stati stabiliti dei principi, sono state prese delle decisioni proprio nei giorni scorsi, e allora vogliamo spiegarle con lei tra poco. Eccoci qui allora con Paolo Ruggirello, deputato questore dell'Assemblea regionale siciliana, assemblea nella quale Ruggirello si è deciso di porre allora questo tetto massimo di 240.000 euro, mi sembra, no? Che è il tetto posto dalla pubblica amministrazione, anche da Renzi. Nessuno potrà guadagnare più di questo. È vero che però il governatore Crocetta voleva addirittura abbassarlo, questo tetto? Ma il governatore Crocetta voleva abbassarlo, ma più di una volta ci sono stati passaggi ben precisi anche con professori di diritto costituzionale, e la regione come l'ARS sono due amministrazioni completamente diverse, e l'ARS è un membro legislativo, quindi costituzionalmente si parametra la Camera e al Senato, non può essere né regolamentata né tantomeno portata avanti qualsiasi decisione attraverso il voto d'aula, ma va attraverso il regolamento interno dell'Assemblea regionale, che risalgono da uno statuto votato e creato nel 1946, e dove solo il Consiglio di Presidenza può adottare misure nei confronti di un personale che è assunto regolarmente con concorso e che quindi ovviamente nei parametri vanno rispettati. Sì. Noi siamo andati assieme al Presidente dell'Assemblea a creare, diciamo, un tetto che era quello del tetto Renzi, proprio potevamo anche fare di più, però è chiaro che in un momento di un però di meno no, percorso, cioè si poteva fare di più, ma di meno no il tetto. Di meno non potevamo fare, non di meno non potevamo fare la perché la legge è soprattutto quello che è la parametrazione rispetto a quello che è lo ripeto, Camera e Senato. Rispetto a un consiglio regionale normale che sì. non legifera. Quindi è sempre, sa che onorevole Ruggirello, la questione che molti italiani non capiscono mai perché non si possa riparametrare verso il basso, ma si può al limite riparametrare verso l'alto. E questa noi verso il basso, per chi non conosceva i numeri all'interno del palazzo, abbiamo certamente riperimetrato parecchio, perché oggi abbiamo, diciamo, stabilito intanto un tetto che è fondamentale, che è il segretario generale, che è la carriera dei consiglieri parlamentari, la carriera più alta, diciamo così, all'interno dell'Assemblea regionale, non prenderà più due volte e mezzo gli stipendi che prendeva il Presidente dell'Assemblea come nel passato, ma è allineato a 240.000 euro. Ecco, questo passiamo da cifre di 520.000 euro a 240.000 euro. Questo è importante, perché l'altro ieri su Repubblica è uscita questa notizia: c'è a Palermo e nella regione Sicilia il burocrate che guadagna 1.600 euro al giorno. Le cifre per la verità erano messe col condizionale, e si parlava proprio del segretario generale dell'ARS, che guadagnerebbe oltre 600.000 euro lordi l'anno. Intanto lei è questore, ma perché non si può sapere con un click su internet quanto guadagna il segretario generale dell'Assemblea regionale? Cioè, ce lo può dire questo stipendio? Sull'Assemblea regionale, per la trasparenza, ci sono messi i parametri, diciamo, di carriera per anzianità e tutto, quindi ci sono le varie tariffe per ognuno, poi ognuno ha una tariffa particolare, nel senso per l'età di servizio, per quanti anni. Certo, ma essendo soldi pubblici, cioè io dovrei sapere, essendo soldi pubblici, quanto guadagna in questo momento il segretario generale dell'ARS, cioè è possibile saperlo questo stipendio? Certo. Ad oggi è 530.000 euro. 530.000 euro lordi? Esatto. Cioè, questo è lo stipendio di Sebastiano Di Bella, che è il segretario generale dell'ARS. 530.000 euro lordi, che al netto quanto fanno più o meno? Al netto penso saranno 3,20, penso che sia qualcosa già, poi non so, la retribuzione di ognuno, diciamo, il tasso di... Ma è uno stipendio incredibile, mi scusi, onorevole... È uno stipendio incredibile, però ricordo sempre che noi, l'Assemblea regionale è uno dei palazzi più antichi in autonomia, che si è creato nel 1946, dove anche il parlamentare nei tempi fino all'anno scorso avevano cifre anche rispettose. Noi abbiamo approvato una legge sulla spend review, quindi la politica si è già allineata a quelli 11.100 lordi, e quindi abbiamo già un parametro preciso, che il parlamentare piglia 8.300 euro netti dollari al mese. Mm. Quindi che sa che sono... in Sicilia e anche in Italia sono manna per qualunque persona, cioè potrebbero essere... Sicuramente, però la vita del parlamentare è una vita diversa. Io capisco il momento, capisco tutto, però guarda caso, dopo circa 60 e passa anni ci si accorge solo ora di una serie di cose. Io sono parlamentare da a diversa in che anni. Senso? Cioè è più complicata? Eh? È più complicata di... È più complicato nel senso che oggi ci si rende conto soltanto oggi, quando il problema Italia, il problema Sicilia, il problema economia in generale ovviamente è in crisi e quindi ognuno ora sta cercando di attaccare, però se andiamo ad affrontare i percorsi e andiamo a cominciare a decidere quello che si vuole fare, realmente ci sono anche, e abbiamo visto più volte il presidente dell'INPS quando prendeva, cioè tutti altri soggetti che ovviamente magari erano messi dietro una nicchia o nascosti dietro apparente situazione, meno in vista dalla politica. Insomma, adesso c'è l'attacco, lei dice c'è l'attacco alla politica, soprattutto l'attacco alla politica, dove ripeto, politica. Per quanto ci riguarda noi, la politica ha voluto farsi ancora prima di uscire in Senato, la Camera, con parametri, con qualcosa, ha voluto mettere delle regole. Io però penso mi scusi, regole... onorevole Ruggirello, voi avreste potuto anche decidere, per dire, il parametro del, cioè lo stipendio da domani dei deputati siciliani, certo sono equiparati al Senato, quindi bisognava farlo anche al Senato, però diciamo a livello nazionale si poteva dire 2.000 euro, come ci ha detto la signora prima di Ravenna, 2.000 euro, 3.000 euro, dai, via, 3.000 euro. Noi abbiamo fatto questo stipendio di, fra l'altro, 6.600 euro, diciamo, di stipendio, poi le 4.000 euro sono lordi sempre come rimborsi, quindi abbiamo applicato una tariffa che è inferiore a tutte quelle tariffe applicate dagli altri consigli regionali, proprio per dare anche lì un significato. Potevamo in autonomia, come la legge ce lo consente, stabilire quello che volevamo, lo abbiamo fatto proprio mettendoci anche nei confronti di altri non regioni a statuto autonomo, ma anche nei confronti di altre regioni normali, tipo la Calabria, tipo, che hanno adottato metodi e criteri. Noi abbiamo sotto soglia stabilito queste 8.003 che dicono abbastanza, dove omnicomprensivo anche lì, quindi tutto compreso, non ci sono scappatoi. Non ho capito solo perché dice che è più complicata la vita del parlamentare rispetto alla vita di una persona normale. Perché parlamentare, e lei sa perfettamente, intanto è una persona eletta dal popolo e quindi ha un suo mantenimento di vita abbastanza pesante. Io non vedo la mia famiglia quasi se non il sabato o forse la domenica, giusto, quindi tutti i giorni siamo all'attività parlamentare, tutti i giorni siamo a cercare di legiferare per il bene ovviamente della collettività e quindi abbiamo anche un lavoro che sicuramente non è come dico sempre a tutti, però non ve l'hanno imposto, cioè è una scelta che l'hai fatto liberamente. Assolutamente, però infatti è una scelta, ma neanche noi abbiamo fatto una scelta di fare parlamentare perché c'era un tetto alto di stipendio, però andare a dire oggi di prendere 2.000 euro è una provocazione. È possibilmente, ci si potrà arrivare, perché ho visto le proposte di Renzi che vuol dare ai consiglieri regionali i parametri ovviamente dei sindaci, delle grandi perché città. Perché no? Potrebbe anche ragionare. Affinché tutto venga, diciamo, dall'alto in basso calato in una maniera netta e precisa. Tutti. Allora, per concludere, onorevole Ruggirello, mi faccia capire però, questo segretario generale che guadagna adesso 320.000 euro circa netti e verrà riparametrata a 240.000, cioè gli verrà tagliato lo stipendio? Dal primo di agosto saranno fatti questi, ovviamente dopo che io ho avuto un atto di delibera di indirizzo fatto dal Consiglio di Presidenza l'altro ieri, andrò in rappresentanza permanente con i sindacati. Stabiliremo tutti i paletti, anche perché oltre 240 ci sono circa 18 persone che ovviamente sono anche loro in fase sia pensionistica e quant'altro, quindi vedremo un'ulteriore fuoriuscita di almeno altri 5-6 dirigenti che andranno in pensione e quindi ci sarà un rinnovo anche della macchina amministrativa all'interno del Parlamento, una riduzione che è già avvenuta di una pianta organica da 258 a 229 persone, quindi di qua al primo di gennaio si vedranno almeno altre 8-9 che andranno in pensione, quindi insomma stiamo rapportando anche al parametro che fra 3 anni ci saranno 70 parlamentari in assemblea, non più 90. Non più 90, va bene, è lento pede come si suol dire, o comunque un passo alla volta ci stiamo arrivando. Certo che 530.000 euro lordi per il segretario generale dell'ARS è uno stipendio che non si può sentire il weekend, poco prima del weekend. Va bene, grazie a Paolo Ruggirello, grazie a tutti, ci sentiamo lunedì mattina, rasserenatevi alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.